4 e. Ascolta e rispondi. Dove vive Luisa? Vive in Svizzera. Che cosa dipinge Luisa? Dipinge un quadro. A che ora chiude la banca? Chiude alle 15. Chi vede Martina? Vede Fabio. Quando riprende lo spettacolo? Riprende alle 9. Chi vende la macchina? Il signor Rossi vende la macchina.